America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. Donald Trump qui parla di commercio, anzi di protezionismo, perché vuole imporre una tariffa del 45% contro la Cina. Secondo lui la Cina è colpevole di aver distrutto molti posti di lavoro americani e dunque vuole recuperare. Donald Trump ieri ha anche detto di essere il re del debito e devo dire che queste sue provocazioni protezioniste, stanno creando scompiglio all'interno del Partito Repubblicano, che invece è un partito assolutamente committed, impegnato sul fronte del libero mercato. Ecco, questo scompiglio, devo dire, poi lo registriamo tutti i giorni, perché ieri, questa è una notizia importante, il presidente della Camera, Paul Ryan, il leader dei repubblicani in congresso, di fatto, ha detto che non se la sente di appoggiare Donald Trump. Ancora dice: non sono pronto, dovremo negoziare. Ecco, questo ci dà un po' la misura di quanto dirompente sia stata l'affermazione di questo candidato nel contesto delle primarie repubblicane. Ma sentiamo Barack Obama. In that regard, Angela and I agree that the United States and the European Union need to keep moving forward with the transatlantic trade investment partnership negotiations, which we'll discuss more this evening. Ecco, Barack Obama, una dichiarazione sul TTIP, l'accordo per aprire i commerci nell'Atlantico fra Europa e Stati Uniti, ne ha parlato appena qualche giorno fa durante il suo viaggio europeo, invece mantiene col Partito Democratico una visione di apertura. Sembra quasi che i ruoli si stiano invertendo. TTIP, tra l'altro, di cui si è parlato a New York nei giorni scorsi, la settimana scorsa c'è stato un tentativo di armonizzare i testi per poi portarsi in avanti verso il processo negoziale. C'è stato anche un consiglio Europa-Stati Uniti sull'energia che è finito ieri. C'è stato un incontro trilaterale in Canada, Messico, Stati Uniti e Canada, per parlare di nuovo di commercio. Cioè, da una parte vediamo che in America sembra prevalere un'onda protezionista, dall'altra vediamo che il processo multilaterale invece va tranquillamente avanti. Ecco, in tutto questo però noi non possiamo dare per scontato che Trump non diventi presidente degli Stati Uniti. E dunque ho fatto un piccolo conto, perché questo suo accanimento contro la Cina dipende da un fatto che su 400 miliardi di dollari di interscambio, 300 miliardi di dollari di saldo netto sono a favore della Cina. Anzi, scusate, 400 miliardi di dollari di importazioni cinesi in America contro 100 miliardi di dollari di esportazione. Quindi c'è un saldo netto di 300 miliardi a favore della Cina. Allora, dico io, ma se qui vale il principio, cioè che si tratta di percentuali, si tratta di calcolare se ci sono equilibri o meno, se il saldo netto cinese del 75% delle esportazioni, qual è il nostro? Il nostro è molto buono, noi possiamo vantarcene che abbiamo un export di 28,8 miliardi di dollari contro un import di 12,5, che lascia un saldo netto di 17,3 miliardi di dollari a nostro favore, cioè il 60%. Ecco, possibile che questo sia troppo per Donald Trump? Ecco, di questo vorrei parlarne con il nostro ambasciatore a Washington, Armando Varricchio, che è qui di passaggio a New York. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno, buongiorno. Ecco, dunque io ho dato un po' questo quadro un po' provocatorio, perché in fondo uno come Donald Trump oggi parla della Cina, domani potrebbe parlare dell'Italia. Lei ha questo timore? Direi di no. Dobbiamo ovviamente considerare che siamo nel mezzo di una campagna elettorale dura, nella quale i candidati si scontrano utilizzando tutti gli argomenti con toni anche estremamente forti. Un po' da tutte le parti si è sentito in queste settimane un dubbio crescente sull'interesse americano per seguire questi accordi di liberalizzazione commerciale, l'accordo con il Pacifico e l'accordo con l'Unione Europea, che chiamiamo TTIP. In questo si inseriscono ultime dichiarazioni. Io credo che in questo momento, al di là della giusta, normale, comprensibile polemica elettorale, siano in gioco due diverse visioni. L'integrazione e quella invece che porta ad una chiusura delle singole aree commerciali. Ecco, ma secondo lei ci sono dei rischi? Perché questo purtroppo lo vediamo anche in Europa in qualche modo, no? Ci sono delle reazioni. Non c'è il rischio di miopia, cioè che non ci si renda conto? Noi, devo dire, qui abbiamo sempre fatto una campagna molto forte a vantaggio dell'apertura e contro la chiusura, perché insomma la chiusura, lo sappiamo, è sempre stata disastrosa a partire da quello che è successo nel 29, quando la chiusura ha portato poi alla depressione. Ecco, non c'è il rischio che questi sentimenti possano prevalere anche al di là dei risultati elettorali, cioè proprio da un punto di vista di pressione dell'opinione pubblica, e cosa si può fare per contrastarli? L'Italia è da sempre un paese che ha fatto dell'esportazione la forza della sua economia. Abbiamo prodotti in grado di competere su tutti i mercati, quindi un nostro vivo interesse, un interesse del nostro mondo delle imprese, dei nostri lavoratori, poter avere accesso senza barriere ai mercati globali. E certamente il mercato americano, come lei ricordava prima, è un mercato estremamente importante. Però allo stesso tempo riteniamo, come governo, come paese, che sia giusto assicurare la massima trasparenza a questi negoziati. Va in ogni modo sgombrato il campo da timori, da paure di possibili ripercussioni su quelli che sono le nostre identità, la tutela di nostre specificità. E su questo come Italia siamo estremamente fermi e attenti. Ecco, su questo devo dire gli americani però resistono, per esempio resistono sulla tutela dei marchi, sulla tracciabilità dell'origine dei prodotti. Noi vorremmo nel contesto TTIP la salvaguardia dei marchi, no? DOC e DOP, ma gli americani su questo resistono, oppure noi vorremmo un'apertura agli appalti pubblici americani, cosa che per ora non c'è, oppure come dire un inserimento dei servizi finanziari, no? Perché l'America poi fa il bello brutto tempo, ha grandi muscoli finanziari, poi però fa anche qualche disastro. Ecco, su questi punti lei crede che, voglio dire, c'è già una chiusura, se vogliamo, dal punto di vista americano, perché l'amministrazione Obama, che pure è aperta, resiste. Lei crede che sia un posizionamento negoziale o che si possano fare dei passi in avanti? Siamo certamente nell'ambito di un negoziato duro, difficile, nel quale tra l'altro ha un effetto diretto la polemica elettorale, come prima si diceva, ed il fatto che l'amministrazione americana in questo momento ha un rapporto complicato con il Congresso, visto che il Congresso in questo momento ha una maggioranza repubblicana. Ma tutto si deve mettere sul tavolo. Per questo, come Italia, confermiamo, siamo a favore dell'apertura. Non abbiamo paura del confronto. Le nostre esportazioni, i nostri prodotti hanno una caratteristica che li contraddistingue: la qualità. Ma vogliamo che questa qualità venga riconosciuta, venga tutelata e che soprattutto, come sempre si dice in questi casi, nel mercato si possa competere ad armi pari. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.